A quello che ha detto la dottoressa Trevisan prima, preciso subito, ma l'avrete intuito, che non è un Andrea Soffer serio quello che stasera vi descrivo e vi propongo. Serio nel senso che non è la solita cartolina su Andrea Soffer, no, questo è un Andrea Soffer visto con ironia. È visto con ironia, e questo per me è un fatto importante, da persone del gruppo etnico tedesco. Da Jochen Gasser, che è un giovane, giovane vignettista che ha disegnato il libro che poi sfoglieremo, e da Norbert Paarschalk, che è uno storico, e questo dà garanzia sull'attendibilità dei fatti storici che nel libro sono illustrati, non solo, ma è un pronipote di Peter Mayer, che è stato un luogotenente di Andrea Soffer. Aveva un'osteria nei pressi di Bressanone e stavano questo movimento offeriano condotto e diretto da osti, no? Però perché anche Andrea Soffer, il Sandwirt, era un oste. Gli osti però all'epoca avevano una marcia in più nel popolo rispetto a tutti gli altri. Perché? Perché erano persone che entravano in contatto con la gente, che viaggiavano, che commerciavano, quindi avevano, raccoglievano informazioni, portavano in giro informazioni, insomma, in un'epoca in cui non globalizzata, nella quale le informazioni non giravano e non correvano come oggi. Oggi sappiamo tutto di tutti, se in Nuova Zelanda uno fa uno starnuto i giornali lo scrivono in prima pagina, per dire. All'epoca, parliamo di 200 anni fa, queste cose proprio non si sapevano. Chi viveva in valle nasceva, moriva in valle, a meno che delle guerre non l'avessero portato via. Gli osti invece, i commercianti invece giravano, Andrea Soffer girava, Peter Mayer a sua volta girava, è stato, come ho detto prima, un suo luogotenente che è stato fucilato nel 1809 a Bolzano. A fianco del Duomo c'è una stele che lo ricorda. Sembra che sia stato sepolto proprio qua, e la tradizione vuole che sia stato fucilato lungo il muro l'argine del torrente Talgia. Ecco, Paarschalk è uno storico, ripeto, quindi attendibilità storica di quello che vi verrò via via raccontando. Questo è Andrea Soffer nella iconografia classica, questo è Andrea Soffer visto dal nostro giovane Gasser. Come vedete, non è l'Andrea Soffer classico, è un pupazzo con pochi peli di barba, che si trascina appresso una botte di vino. Perché? Questo è un ulteriore risvolto dell'ironia di questi due autori, perché pare che Andrea Soffer fosse molto votato alla bottiglia. E quindi vedrete che nella successione delle immagini la botte di vino appare piuttosto frequentemente. Qua incominciamo con la storia di Andrea Soffer a scuola. Questa praticamente fa parte delle prime pagine, vi faccio vedere soltanto una selezione, logicamente. Dalla scuola, dal suo itinerario, diciamo così, scolastico, si apprende anche che Andrea Soffer è stato in Aclese, in Val di Non, per anche a Ballino delle Giudicarie, da ragazzo, per apprendere la lingua italiana. Logicamente il suo italiano non era, posso immaginare, non era un buon italiano, non toscaneggiava di sicuro, avrà imparato il trentino di quelle valli, però c'era un'apertura in Andrea Soffer nei confronti, per l'appunto, della realtà italiana, e vorrei aggiungere tirolese italiana, anche vi ricordate, insomma, il sud, il Trentino odierno, altro non era che il Welschtirol, detto anche Südtirol. Oggi si parla di Südtirol qua, ma il vero Südtirol è il Trentino. Questo invece era Tirolo, Tirolo, Tirolo. Anzi, direi che il vero Tirolo è questo, perché la città, il castello di Tirolo qua nasce, qua è stato costruito, qua sono avvenuti gli episodi che hanno portato successivamente al passaggio alla casa d'Asburgo della contea del Tirolo. Andiamo avanti. E qui è un altro momento della vita di Andrea Soffer, notate in alto, non ha ancora la barba. La barba gli è nata sul filo, gli è cresciuta sul filo di una scommessa che è raccontata nel libro, ma che non vi voglio anticipare. Eccolo qui, Andreas Hofer, oste commerciante. La moglie di Hofer gestisce la trattoria e Andreas è spesso in giro per il commercio di animali e di vino. Commerciava soprattutto in cavalli. Dopo il 1800 il vino e la grappa sul Tirolese diventano merce richiestissima in tutto il nord Tirolo ed in Carinzia. Andreas Hofer conosce in questi anni molta gente che lo rispetta come commerciante e lo apprezza come uomo. Ecco che Andreas Hofer gira, si fa conoscere, conosce. Notate la bellezza di questo. Questa sarebbe la moglie di Andreas Hofer. Questo qua sta ruttando, come vedete, no? E lui si chiede, Andreas Hofer, se sia opportuno portare ancora dell'alcol a questi personaggi che sono evidentemente addirittura inebetiti. Alla sua popolarità e alla sua abilità nel rapportarsi alle persone, Andreas deve gran parte dei suoi successi politici e militari. Sapete che Napoleone venne una prima volta da queste parti, più nel Trentino ovviamente che in Alto Adige, non ancora imperatore, nel 1796 come generale Napoleone, e fu contrastato dagli asburgici al passo del Tonale. Ecco il Toro in centra, ho il dito troppo grosso. Nel 1797, nella battaglia nei pressi di Bolzano, contro i francesi che avanzano, Hofer si fa valere per la prima volta al comando di una compagnia della Valpasiri. Inizia la sua carriera militare, sicuramente non sapevano nulla di strategia militare, ma l'interessante è questo, che questi contadini che sparavano sui francesi e sui bavaresi, altro risvolto interessante da sottolineare, perché non sono stati solo i francesi a conculcare le libertà su tirolesi, ma anche i bavaresi d'accordo con i francesi e anche i sassoni alleati con i bavaresi, e la conduzione della guerra da parte di queste bande di Schützen, che poi erano Schützen, era assolutamente elementare, non è che si adeguassero ad una scuola di guerra, logicamente. Andavano semplicemente all'attacco, nascondendosi, puntando sulla sorpresa, come contemporaneamente stavano facendo gli spagnoli contro le truppe napoleoniche. In un momento successivo, per la verità, in Spagna, e nasce là la guerriglia. Il termine guerriglia viene dallo spagnolo, piccola guerra. Quindi la guerriglia è nata in Spagna in epoca napoleonica, e Andreas Hofer in un certo senso ha anticipato la guerriglia in queste valli. Questo non appare nel libro, ma ve l'ho scritto per vostra chiarezza. La rivoluzione francese bussa ormai anche alle porte del Tirolo. Nel 1796 le truppe della Repubblica Francese, in guerra contro la coalizione delle monarchie europee, si apprestano ad invadere la regione. Nel clima di paura e mobilitazione generale contro il pericolo dei diavoli francesi, diavoli non a caso, perché i francesi erano anticristiani, anticlericali, diciamo, ecco. Portavano delle novità, delle istanze laiche che sicuramente non facevano piacere, anzi tutt'altro, ai contadini delle valli, al clero in particolare. E cosa avviene? Il 1 giugno del 1796 un comitato della Dieta tirolese riunita a Bolzano mette l'intera regione sotto la protezione del Sacro Cuore di Gesù. A lui viene solennemente giurata eterna fedeltà e la celebrazione di una festa annuale è il famoso patto col Sacro Cuore per Gesù Bud, che da allora sarà rinnovato più volte nei momenti di pericolo. Aprirei a questo punto una breve parentesi per parlare di questo strano fatto, di questo curioso fatto che è il patto con il Sacro Cuore di Gesù. A pensarci è una cosa che non c'è il caso di dire né in cielo né in terra, insomma. Ve lo immaginate il Sacro Cuore, Gesù che col suo Sacro Cuore in mano viene a stringere un patto con i tirolesi. Però quella del Sacro Cuore è una realtà religiosa che aveva preso l'avvio ancora anni e anni prima, anzi direi secoli prima, nel primo Medioevo, quando si iniziarono alcune mistiche, in particolare Margareta di Magdeburgo, a avere visioni, a immaginare, a supporre, e questa presenza del cuore, di questo cuore sanguinante, sanguinolento che le appariva. Ecco, e iniziò il culto del Sacro Cuore, quella appunto un'immagine che, se non fossimo cristiani, non fossimo in particolare cattolici, ci sembrerebbe assolutamente strana. Cerchiamo di vedere questa immagine con gli occhi di un non cristiano, no? E questo sarebbe il Sacro Cuore nell'iconografia classica. Che trovate anche nella chiesa del Duomo di Bolzano, e davanti a questa immagine del Sacro Cuore, tra parentesi, è stato poi celebrato, prima siglato il patto, poi è celebrata la dedizione del Tirolo a questa immagine, a questa realtà un po' fantasiosa. Voglio sottolineare il fatto che questo Sacro Cuore, nato all'inizio del Medioevo, avevo detto prima di questa Margareta di Magdeburgo, poi ce ne sono state altre mistiche, chissà perché sono sempre le donne ad avere queste, o prevalentemente le donne ad C'è anche avere San Giovanni, queste. c'è anche qualche maschio, dai. C'è anche qualche maschio, come diciamo San Francesco, per esempio, no? San Ecco. Giovanni. Però la prevalenza è femminile, direi. Ecco, Santa Teresa, vabbè, lasciamo perdere. Non voglio entrare rischio di sconfinare nel blasfemo, non voglio farlo. Ma è curioso un fatto, perché Sacro Cuore? Perché durante la Rivoluzione francese ci fu la resistenza degli aristocratici e del clero alle istanze, alla rivoluzione vera e propria, portata avanti dal terzo estato, che sarebbe stata la borghesia, più l'appoggio esterno, direi, ma più fattivo, del proletariato. Ed è questa resistenza si localizzò soprattutto in una regione della Francia che si chiama Vandea, e fu detta la Vandea, conosciuta come una realtà, vorrei dire reazionaria. Tuttora si parla di Vandea quando si vuole illustrare una realtà piuttosto chiusa, insomma, la realtà allora rappresentata per l'appunto dalla reazione di aristocratici e del clero alle istanze della rivoluzione. E Andrea Sofra fa suo questo patto del Sacro Cuore, che è stato siglato qui, in questa casa, che è il Palazzo Toggenburg a Bolzano. 26 esponenti della dieta di Innsbruck si riunirono in una sala di questo palazzo, decisero di sottoscrivere questo patto. Ci fu un notaio che annotò, cioè non so la controparte se era il Sacro Cuore di Gesù, da chi poteva essere rappresentato, non lo so perché non ho approfondito l'argomento. Comunque, questa è una targa che ricorda, a 100 anni di distanza, nel giugno del 1800. 96, l'avvenimento, e questa è una targa che è stata apposta qui dalla contessa Virginia von Toggenburg, nata contessa di Sarentino. Ecco, ho chiuso questa parentesi. Questa qua è l'immagine del Sacro Cuore che vedete sulle montagne adesso ogni Quotidiana. tanto. Immagine quotidiana del Sacro Quasi Cuore. quotidiana, ma no, l'interessante è questo, che questa immagine la si vede soprattutto una volta all'anno, quando si accendono i fuochi del Sacro Cuore, che non hanno nulla a che vedere con il Sacro Cuore. Sono dei fuochi che rinnovano una tradizione pagana, pre-cristiana, che si accendevano sulle montagne in occasione del solstizio di estate. La giornata più lunga dell'anno veniva sottolineata dall'accendersi di questi fuochi, che poi furono ripresi anche dalla tradizione romana, e infine fatti propri dalle tradizioni tirolese, oferiana e tutte queste cose qua. Durante il fascismo, se leggete, io ho letto i giornali del periodo fascista come la provincia di Bolzano, in occasione del solstizio d'estate parlavano appunto di questi fuochi, dissacrandoli molti e sottolineando la realtà pre-cristiana di questi fuochi, per togliere evidentemente peso e importanza a quell'altra realtà che voleva essere portata avanti dai sultevolesi di lingua tedesca. Da chi li accendeva, che alle volte, ma questo è il curioso che ho letto sulla provincia di Bolzano, per esempio, che il fascismo allora facilita, insomma, spingeva a sua volta all'accensione di questi fuochi, e giovani fascisti vestiti appunto da fascisti con la camicia nera andavano, e questi giovani fascisti non erano altro che valigiani sudtirolesi di lingua tedesca, insomma, no? Però erano appoggiati nell'accendere questi fuochi. Intelligentemente il fascismo non vuole contrastare questa realtà, perché i fuochi li avrebbero accesi lo stesso in funzione anti-italiana. La favorì. Chiudiamo questa parentesi. Nel giro di pochi anni un nuovo ordine che Napoleone impone all'Europa porta gravi conseguenze al Tirolo. Con la pace di Presburgo, 1805, questo è molto importante, l'Austria è costretta a cedere il Tirolo alla Baviera, alleata dei francesi. Il Tirolo si chiama ora Baviera Meridionale. Bolzano rientra invece nel dipartimento dell'Alto Adige, appartenente al Regno d'Italia, del quale è viceré Eugenio, figliastro di Napoleone. Per cui la Baviera arriva praticamente fino a Chiusa, Merano e Baviera, e Chiusa e Baviera, la Val Pusteria e Baviera, anche la Val Gardena. Bolzano invece fa parte del Regno d'Italia, retto da Eugenio di Beauharnais, che era il viceré. Il re era logicamente Napoleone, che era anche imperatore, insomma, stava soprattutto. Eugenio figliastro di Napoleone. Voglio sottolineare, ma lo sapete tutti, ma io ve lo volevo ricordare, dipartimento dell'Alto Adige. Quando si dice che Alto Adige è un termine fascista, non è vero, è un termine napoleonico. Il dipartimento dell'Alto Adige comprendeva il Trentino, il fascismo, ma anche giù verso Verona addirittura, no? La leva militare, le pesanti tasse e le riforme centralistiche imposte dai bavaresi provocano un generale malcontento tra i tirolesi, alimentato dalla Chiesa e dalla Casa d'Asburgo. Vedete qui aristocrazia e Chiesa. Nel 1809, nello stesso momento in cui l'Austria dichiara guerra alla Francia, scoppia l'insurrezione tirolese al motto Gottkaiser und Vaterland, guidata da Andrea Sofre. Voglio sottolineare a questo punto un'altra circostanza interessante. Gottkaiser und Vaterland, cioè Dio, il Kaiser, no? Il clero, l'aristocrazia e la patria, cui si contrapponeva naturalmente il motto Liberté, Égalité, Fraternité della Rivoluzione Francese. Quindi scava scava, gratta gratta, ma neanche troppo, si nota come la guerra, la guerriglia condotta da Andrea Sofre sia stata una guerriglia reazionaria di fronte al insorgere, dal crescere delle istanze libertarie e rivoluzionarie della Francia. E questo è un altro risvolto che non viene sottolineato a mio avviso sufficientemente, anche se altra cosa da tenere presente: queste istanze rivoluzionarie di libertà, di qualità, eguaglianza e fraternità sono portate avanti alla fin fine da un autocrate che è Napoleone Bonaparte. Però la partenza era sempre una partenza assolutamente libertaria. Lo sforzo di Richizia di tutta la regione riesce a scacciare provvisoriamente i bavaresi. Dopo aver vinto alcune battaglie, famose quelle del Berghisel vicino a Bressanon, a Innsbruck, i tirolesi non accettano la pace che nel frattempo è stata raggiunta tra Francia ed Austria. Adesso qua incominciano delle divergenze tra Andrea Sofer e i tirolesi, appunto. Non c'è mai stato del buon sangue sostanzialmente tra il Tirolo e la Casa d'Austria, nonostante quello che si possa dire. I tirolesi sono un popolo che io avvicinerei molto agli svizzeri, molto orgoglioso, molto portato ad autogovernarsi, per cui non gli andavano bene i bavaresi, ma sotto sotto sotto neanche i di Asburgo. Potrei fare, raccontarvi molte cose dell'epoca di Peratone, del sindaco di Peratone, del sindaco Peratone, sul volgere del secolo, tra 800 e 900, quando le simpatie della città di Bolzano, che era retta da questo sindaco liberale e laico, le simpatie di Bolzano erano orientate non verso Vienna, come si può ritenere, ma verso Berlino. In funzione anche anticattolica, tant'è vero che il termine Los von Rom fu gestito anche dai liberali sudtirolesi, intendendo Rom come Vaticano, quindi allontaniamoci via dal cattolicesimo, via dal Papa, via, per aderire ad un, non voglio dire al protestantesimo, ma quasi. Ecco, il Tirolo diventa Baviera del Sud. Qua c'è scritto Baveria o Baveria, pazienza, non mi hanno passato le bozze per la correzione finale. Ecco, a quelle considerazioni le cose vanno male, economicamente male. Qui vedete appunto il Tirolo che viene inglobato nella Baviera, che qua è definita giustamente Baviera. Baviera. Vedete qui l'austriaco che regala il Tirolo al francese, il francese le voilà, lo allunga al bavarese che inneggia alla Francia, vive la Francia. Ecco, questo qui è uno dei primi, è uno dei tanti e primi episodi guerreschi qua raccontato nel libro, un episodio di Vipiteno, e non voglio scendere nei dettagli. Come ho detto, comunque non è un guerreggiare classico, questo è un guerreggiare da guerriglia, insomma, ecco, come ho detto in precedenza. Queste bande di Schützen comunque riescono ad arrivare addirittura a Innsbruck, e come vedete questi non sono francesi, torno indietro perché ho sempre il dito troppo pesante, ma sono bavaresi, camerati, scappiamo, sono bavaresi, quindi i sudtirolesi, gli Schützen di Andreas Hofmann, hanno cacciato non come si può ritenere i francesi, ma i bavaresi. È stata, in altre parole, una guerra tra gente che parla tedesco, anche se, adesso lo ripeto ancora una volta, questa realtà è abbastanza sottesa, perché fa più comodo parlare di francesi e in margine magari anche di italiani. Per quanto gli italiani, Schützen tirolesi, combattevano assieme ad Andreas Hofmann contro i bavaresi, e questo è un altro risvolto curioso. Beh, qui vedete questo qua è Madonna Santa, quando nascerò mi farò regalare dal Padre Eterno delle dita e dei pollici in particolare da bambino, così non prendo tre tasti simultaneamente. Questi sono momenti divertenti, però vedete, questo è interessante perché questo è lo Speckbach, che non commento più, che è uno dei luogotenenti di Andreas Hofer, per l'appunto Andreas Hofer, Speckbach, poi ho detto precedentemente di Peter Mayer, e il quarto elemento era il famoso prete cappuccino Haspinger, un prete cappuccino assolutamente sanguinario, che naturalmente nei confronti dei bavaresi, dei francesi, considerati da lui dei demoni, induceva alla lotta col forcone, con la falce. Ecco la Valle dell'Inn in fiamme. Questi sono i francesi e questo è il bavarese. O ci brucia tutto alla crante. Io, per la verità, nella mia traduzione avevo insistito, volevo fare in modo far parlare Andreas Hofer in dialetto trentino, perché nel testo tedesco originale Hofer parla sul tirolese. Allora gli ho detto, facciamoli parlare il dialetto, no? Tanto più che, come abbiamo visto prima, se è stato imparare l'italiano in Val di Non, nel Balino, roba del genere, sicuramente parlava il trentino. Mi sembrava una cosa graziosa. E invece gli autori non hanno voluto, hanno preferito farlo parlare in italiano, cosa che, beh, insomma, questione di gusti. Ci furono 4 battaglie sul Berghise, non una soltanto. Questo qua è Speckhauser, questo qua è Andreas Hofer, questo è il famoso Hasming di cui vi ho detto prima, e questo posso supporre sia Peter Mayer. C'hanno la barba o non c'hanno la barba? No, allora non c'è Andreas Hofer. Andreas Hofer invece è qua. Con che tattica Hofer? Non importa, basta non farli salire sul Monte Isa. Vi ho detto prima che la sua azione di guerra era un'azione assolutamente dilettantistica, però efficace. Eccola qua. Qui siamo sul Berghisel nuovamente. Il Berghisel si trova immediatamente a sud di Innsbruck. È tutto un florilegio di statue, di musei, cose varie, a celebrazione di questi momenti storici. E qui vediamo Hofer che si insedia alla Hofburg. E subito fa inchiodare sui muri Madonne, la croce, perché era buon bevitore ma anche molto molto ma molto religioso. Questo leggiamo insieme. Padre Hofer, così lo chiamano ora in molti, regge adesso il Tirolo da una piccola sala della Hofburg. Continua però a comportarsi come un contadino ed un oste, concede infatti udienze in maniche di camicia. Il movimento attorno a lui è frenetico come quello di un affollato mercato. Lo svolgimento della serata è sempre il medesimo ed è fissato con precisione. Dopo la messa del mattino inizia le attività di governo. Dopo la cena tutti gli ospiti e il corpo di guardia, senza eccezione, devono partecipare al rosario. Vengono recitati innumerevoli Padri Nostri in onore dei santi che gli vengono via via in mente. Chi in questi momenti va a trovarlo deve pregare a sua volta. Dopo la preghiera serale si gioca a carte, si beve e si canta. È una gestione da osteria, direi, no? Pensate alla Hofburg al posto dei cosi, al posto dei signori cicisben cipriati. Ci sono adesso, vedete, emergere adesso questi personaggi un po' sbracati, un po' volgari, e con degli istinti talebani, come vedete qua, perché tra l'altro questi contadini a contatto con una realtà abbastanza avanzata, quella di Innsbruck all'epoca, per quanto avanzata potesse essere, si scandalizzano e naturalmente invocano un ritorno ai buoni costumi. Le donne vengono bersagliate di sterco di cavallo raccolto dalla strada, vedete anche qua, tagliano i capelli, torno indietro, il dito è sempre troppo largo, tagliano i capelli e questa riesce ironicamente a cavarsela mettendosi una specie di turbante in testa. Ecco, si parla tanto di talebani, ma insomma, in un certo senso un po' di insofferenza femminile all'epoca. La portavano avanti anche i nostri valligiani. Questo è simpatico perché in momenti di depressione vedete Andreas Hofer annegare la sua tristezza nel vino, tenendo sempre in mano un rosario. È sempre il frommes Andreas Hofer, insomma il pio Andreas Hofer. Questa è la quarta battaglia di Berghisel, che lui non voleva più combattere, perché cosa era avvenuto nel frattempo? Che la Baviera l'Austria si era alleata a Napoleone, e questo aveva sconvolto la realtà per la quale Andreas Hofer combatteva. I tirolesi sono stati abbandonati dagli Asburgo. C'è stato chi nell'ambito del Tirolo ha ritenuto, tra gli altri soprattutto il solito Hastinger, il solito padre Hastinger, a insistere a portare avanti questa loro resistenza alle istanze reazionarie, diciamolo pure, di Andreas Hofer. Qui vedete Andreas Hofer, che sotto voglia, con la faccia triste perché proprio non ce la sentiva più, aveva capito che la guerra era persa, contro voglia si adatta alla volontà di questo frate cappuccino, rivolgendosi a truppe ormai demotivate. Tra l'altro, nella prima parte della resistenza di Andreas Hofer, della guerriglia, eccetera, eccetera, gli Schützen, che scendevano dalle montagne e combattevano con Andreas, avevano un tempo di ferma limitato, nel senso che si dedicavano, lasciavano per una quarantina di giorni casa loro e si dedicavano a questa guerra, poi dovevano tornare a casa per curare i propri affari, eccetera, eccetera. Quelli che restavano venivano retribuiti. Più avanti non si trovarono più i soldi, quindi i contadini, i tirolesi, finirono con il disamorarsi e la guerra portata avanti contro voglia di Andreas Hofer fu alla fine sostenuta da persone interessate per quel poco di denaro che ancora ricevevano e soprattutto degli sbandati, dei violenti, gente scappata, fatta fuggire dalle carceri, quindi personale non motivato e poco raccomandabile. E questo è stato un altro dei motivi per i quali l'ultima battaglia di Andreas Hofer è stata persa. Ecco qua. Vedete questa è... Potete prendere il Monteise, non me ne frega niente, io me ne corro a casa. Questi sono gli Schützen, gli altri tirolesi, diciamo, che non sentono più nessuna motivazione alla prosecuzione di questa guerra. E mentre il francese, questa volta è francese e non bavarese, si esprime col termine di chambron per far meglio capire il proprio sfregio nei suoi confronti, nei loro confronti. Andrea soffre, torna a casa, quattro peli anche di barba, torna a casa, viene tradito, viene raggiunto in questa baita nell'alta Val Passiria dove si era rifugiato, è portato a valle. Andrea Sofra, la guerra non è finita, non c'è più da combattere, non c'è più nulla, è persa. Il Tirolo si trova nella condizione di prima, non c'è più Andreas e i suoi Schützen a sostenerlo, però Andreas aveva fatto un grosso errore, che era stato quello di combattere per conto suo. Quando alla fine la casa d'Asburgo ha abbandonato il Tirolo e i tirolesi che combattevano per lui, per la casa d'Asburgo, cioè si è messo dalla parte del torto perché ha fatto una guerra personale, cosa che non era ammessa, e quindi l'incarcerazione e la fucilazione a Mantova. Fucilazione che tra l'altro è stata celebrata. Vedi, questo povero di buon Kaiser Franz non si rende conto che è stato mollato, per usare un termine poco elegante, che è stato tradito proprio dal suo Kaiser. Questa è l'inno di Andreas Hofer, che io ho tradotto la prima parte, figura sull'altra pagina, da sostenere, da sottolineare una circostanza che questo buon uomo, che era stato assolto dal tribunale di Mantova, che era stato convocato per l'occasione, il tribunale militare, ma poi Napoleone, quando lo ha saputo questo fatto, ha comandato che venisse fucilato, doveva essere d'esempio naturalmente, quindi è stato fucilato e per abbatterlo ci sono volute due scariche, perché la prima scarica non è andata a segno, nel senso che i militari che dovevano sparargli addosso non gli hanno sparato addosso. Il buon Andreas Hofer, soprannominato il Barbone dagli italiani di Mantova e le Barbon dai francesi, era a conti fatti ben voluto. E quindi, poveretto, non hanno mirato su di lui, hanno dovuto risparare e questa volta hanno sparato giusto. Ecco qua Andreas Hofer che vola verso verso il paradiso. E vedete nuovamente la vena ironica del pittore, del disegnatore. E notate la raffinatezza, un po' iconoclasta, di questo Andrea Soffer nudo con il culetto fuori, che mi ricorda molto lo Spadolini di Forattini, avete presente, no? Ecco, il Forattini felice, quando era felice di intuizione, adesso è molto meno, disegnava Spadolini per l'appunto così. Andrea Soffer è un angioletto, quindi vola verso il cielo, dove entra in contatto col Padre Eterno. Logicamente questo non è storia. A questo punto, terminata la storia con la fucilazione, l'autore del testo, Parshak, va un po' di fantasia e continua nella sua opera ironica e... non vorrei usare il termine distruttivo, che sarebbe molto pesante, no? Però il tutto è trattato con una certa bonomia, insomma, e anche con una certa simpatia. Andrea Soffer, dopo arrivati a conclusione di questo libro, appare come un personaggio a conti fatti simpatico. Questo suppongo essere San Pietro, visto che ha le chiavi del paradiso in mano, e Andrea Soffer con il suo fiorellino qua in evidenza, vedete come Spadolini, alza gli occhi a guardare il Padre Eterno che lo sovrasta. Questa è la medaglia che gli era stata data dall'imperatore, da Kaiser Franz d'Asburgo, in occasione della sua prima vittoria del Berghisel. Il Padre Eterno gli chiede: Offer, doveva proprio accadere tutto questo, caro Signore Dio, alla fine ho perduto la testa e ho fatto una sciocchezza. Voglio essere clemente, hai ancora un desiderio? Ma sì, Padre Eterno, una botticella di vino per piacere. Vedete che si sottolinea ancora una volta la circostanza della buona disponibilità di Hofer nei confronti del bere. Ed eccolo qua sulla nuvoletta, che beve, che s'addormenta, che noia, dopo 25 anni vi fanno un corteo. Qui sotto vedete di anno in anno lo svilupparsi delle cose. La stampa viennese non dedica alla morte di Hofer neanche una parola. Hofer, l'ho detto prima, non era ben visto a Vienna. Non era ben visto a Vienna, era trattato con un certo distacco ed una certa noia. Nel 23 le ossa di Hofer vengono trasportate ad Innsbruck di nascosto. Nel 23 erano ancora a Mantova. E un reparto di soldati austriaci lo trafugò d'iniziativa propria da Mantova, li portarono a Bolzano, questi resti, queste poche ossa, suscitando un pandemonio in Austria presso la corte di Vienna, che non volevano sapere di Hofer, naturalmente, e poi alla fine furono le ossa portate a Innsbruck e inumate a Innsbruck, dove tuttora si trovano. Ecco qua, la prima volta, 1899, il Kaiser Francesco Giuseppe va in visita al santo la casa di Hofer. Qui incomincia ad esserci una rivalutazione del personaggio Andrea Soffer, anche perché politicamente la cosa incominciava a tornare comoda. Passano gli anni, passa il tempo, signori Dio mi scusi, non vorrei disturbarla, e torniamo col dito grosso. Accidentaccio. È terribile. L'ho detto che devo farmi cambiare le dita. Ecco, sì, Hofer, sei stato bravo a lungo. Qual è il tuo problema? Mi piacerebbe il libretto di Jochen e Norbert, il libretto che alcuni di voi hanno in mano. Quello lo puoi avere, e tu cosa mi dai in cambio? Perché, dice il Padre Eterno, anche in cielo tutto ha un prezzo, e fa il gesto. Beh, non ho niente a parte, risponde Andreas. Questo è stato un buono scambio, Hofer. Gli dà la botticella di vino, il Padre Eterno dà a Hofer il libro, grazie a Dio adesso ho trovato finalmente la pace celeste, e Andreas Hofer se ne va. Ecco, termina qua il libro scritto da questi due autori, e che come avete avuto modo anche di seguire dalle mie parole, vi illustra un Andrea Soffere molto umano, scanzonato, diverso, non è il Santino, non è la solita iconografia, la solita icona, cioè è un personaggio che a conti fatti è anche simpatico, proprio perché si contrappone all'immagine paludata e anche un po'... non vorrei dire provocante, ma insomma un po' troppo seriamente sottolineata, che ci viene proposta, specialmente in quest'anno, direi quasi quotidianamente, da certa politica. Ecco, non voglio aggiungere altro, chiuso questa mia chiacchierata, vi ringrazio dell'attenzione e spero di non avervi tediato oltre misura. Grazie. Dall'altro gruppo etnico. Ma ti dirò una cosa, il libretto nella sua versione tedesca, perché la prima versione tedesca, l'editore Weger, no, di Bressanone, è stato, no, prima Rezia, poi l'editore Weger l'ha sottratto alla Rezia e ha continuato a stamparlo. E fino a tre mesi fa, avevano venduto oltre 10.000 copie. Gruppo etnico tedesco. E il gruppo, di fatto, hanno detto facciamolo anche in italiano. Io ho detto questo è un libro che può andare bene soprattutto nel Trentino, dove c'è una certa simpatia verso il Tirolo, il tirolesismo e robe del genere. Mi dice la signora che anche qui a Bolzano, per curiosità, insomma, questo libro, del quale sono state tirate qua solamente 1.000 copie, comunque ha seguito e sta piacendo, insomma. È una cosetta amabilmente diversa, direi. Ecco. Dimostra che si può trattare ogni argomento, anche il più serio, con un po' di ironia, sorridendo, no? Castigat ridendo mores, o più o meno, insomma, anche se non è proprio questo il motivo del detto latino. Vi ringrazio ancora una volta, grazie a tutti.